Io lascio, poi rispondere a loro. Dico solo una cosa, un'esperienza personale. Ti capisco perfettamente, perché mia sorella e mio padre sono contadini e non sono qui stasera. Parlo con Dario, con Gabriele e non sono qui, quindi lo so benissimo di che cosa parli. Però penso che attraverso anche un'iniziativa del genere riesco a parlarci adesso, riesco a così. E questo è stato il nostro lavoro. Poi tutto il resto lascio rispondere a loro. No, ti dico per capirti, no? Cioè, ti dico la mia esperienza. Mia sorella e mio padre sono contadini e non sono qui. Posso dire come la penso io su quello che hai detto? Secondo me c'è un errore di percezione che forse non riusciamo a spiegarci. Fino a 4-5 anni fa, di questi temi, io sicuramente, ma anche altri, non trattavamo. Dove li abbiamo incontrati? Non li abbiamo incontrati nelle nostre campagne, attenzione. Per la mia esperienza e per quello, credo, non di tutto magari questo gruppo eterogeneo di persone, li abbiamo incontrati nei movimenti globali, cioè in giro per il mondo. Io non sono un terzo mondista, ma non è nella società dell'abbondanza che si è messa in moto una controtendenza nel modo di guardare alla terra, agli OGM. Questo è un percorso di elite, il nostro. Ma è il meccanismo della globalizzazione, è il percorso della globalizzazione. E quando dico globalizzazione, e facevo prima riferimento all'evidenza empirica sulla diminuzione della popolazione in agricoltura, guarda che se non questa controtendenza non si mette in moto anche nelle nostre campagne, anche nelle nostre terre, anche nei nostri contadini, fra 10 anni la popolazione impiegata in agricoltura, la stima in Italia, è la metà dell'attuale, che oggi è la metà di 15 anni fa. La produzione agricola in questo paese, se noi non mettiamo in moto dei meccanismi di valorizzazione, di controtendenza, è destinata sostanzialmente a scomparire, tranne alcune produzioni di elite, macinata dal sistema della produzione industriale. Attenzione, anche il settore vitivinicolo, anche le produzioni di elite, non stiamo parlando soltanto di quanto è accaduto in vastissime regioni italiane, in vastissimi territori, sulla valorizzazione delle terre, ciò che oggi è cultura, che è un meccanismo addirittura secolare. Per cui questo io credo che ci sia un problema di tempi. C'è un grande movimento globale che ha messo che sulle dinamiche di un impoverimento generale, magari non assoluto, ma certamente relativo, di miliardi di persone, ha messo in moto le idee, i gangli attraverso il quale il nostro paese su questi temi sono arrivati. Sono gangli che sono più tipici del movimento. Ma attenzione, sarebbe un errore credere che questo meccanismo, piano piano, ma neanche tanto piano piano, non arrivi potentemente anche nelle nostre campagne. Se la Confederazione Italiana Agricoltori e altri si sono messi in moto su alcuni di questi temi, perché il meccanismo che li ha messi in moto è un meccanismo generale che vale nelle campagne del Karnataka, in India, dove non c'è certo società dell'abbondanza, e vale purtroppo anche nelle nostre. Allora io credo che quando discutiamo di questo concepiamolo ancora come un meccanismo per pochi addetti ai lavori, però attenzione, perché è il meccanismo di fondo che agisce, e fra qualche anno questa discussione in questi termini non si potrà più tenere, perché non saremo noi i protagonisti di questa vicenda, saranno ben altri i protagonisti, quelli che continueranno e riusciranno ancora a continuare a produrre, a trasformare nel sistema agroalimentare, perché avranno trovato un meccanismo di resistenza interno nelle nostre campagne. Per questo io dico attenzione, non guardiamo con la lente proprio, non siamo presbiti, voglio dire, quindi non guardiamo lontano sulla luna, però neanche miopi, perché quello a cui stiamo assistendo in agricoltura è un meccanismo secolare. Cioè, basta leggere i meccanismi di agricolture più evolute, industrializzate, o anche la nostra storia recente, e ci rendiamo conto che o mettiamo in moto questa roba qui, ma non noi possiamo contribuire, è già in moto.